registro. Le prime righe o la prima pagina di un libro. Ma metterla in carica, dici? Allora, per esempio, l'incipit di questo libro è: nei primi mesi del 2003 si può vedere al Getty Museum di Los Angeles una mostra di video di Bill Viola. Questo è l'incipit di questo libro. Ce l'ho anch'io uguale a questo qui. Questa collana si chiama incipit, credo perché è una collana di piccoli, quindi, e poi in quarta di copertina mettono sempre non l'incipit ma un pezzo del libro, che loro fanno finta, forse i primi numeri c'era proprio l'incipit, poi dopo li hanno messo altre cose. Comunque questa qui è una collana in cui sono delle cose che mi sembrano interessanti, eccoli qua, e che mi sembrano interessanti e tra cui vi segnalo, una roba bellissima sulla roba della cultura ebraica che non sapevo, che è Alaka e Agada, sulla legge ebraica, di Chaim Nachum Bialik. Poi è uscito il pezzo del grande inquisitore, il pezzo dei fratelli Karamazov di Dostoevsky, un testo poco noto di Kant, un bellissimo elogio della bicicletta di Ivan Illich, la prova matematica dell'esistenza di Dio di Kurt Gödel. No. Ah, chi ha fatto la dimostrazione? Ma Gödel era matto, come tutti sanno. Una cosa di Marco G. sul mestiere dell'antropologo che potete benissimo non leggere. Anche Kenò ha fatto un'operazione matematica dell'esistenza di Dio attraverso. Però Kenò non era un matematico, mentre Gödel lo era. Quindi Gödel l'ha fatto davvero. Ha dimostrato un teorema da cui si tratta. Non venivi? Ti ho appena risposto. Perché ho internet guasto a casa, quindi l'ho guardata oggi. Va bene, ma alle ninfe ci arriviamo dopo. Come ninfe. Giorgio Agamben, ninfe. Ne parliamo dopo. Allora, nel testo che vi ho letto di Benjamin l'altra volta, che adesso non leggerò, non trovo più il caso, che l'ho scritto a mano con una Biro semiscarica, questo è il problema, che la Biro era semiscarica, no, poi dopo ritorno con i coglioni, la seconda parte è scritta come una Biro carica, ma la prima parte non so se si legge. E comunque se non c'è luce non ci vedo un cazzo, ma insomma no, adesso mi metto così e leggo, volevo solo rileggere. Allora c'era un concetto che, uno dei concetti che abbiamo, che dice lui, insomma, che è. Sì, vabbè, insomma, il centro concettuale di questo passo che vi ho letto l'altra volta era che le immagini non solo sono storiche, nel senso che sono storicizzate, ma non solo appartengono a un'epoca determinata, ma soprattutto giungono a leggibilità in un'epoca determinata. Cioè ci sono vari modi di leggere le immagini e un'immagine può avere la sua leggibilità anche dopo che è stata prodotta. Quindi c'è un tempo di produzione e un tempo di ricezione, possiamo dire noi, leggibilità, dice lui, ma insomma, dice Benjamin. Ogni presente è determinato da quelle immagini che gli sono sincrone, ogni ora, yet, è l'ora, yet, di una determinata conoscibilità. Leggibilità, conoscibilità, possiamo dire come vogliamo. In quest'ora la verità è carica di tempo sino a frantumarsi. Allora, un esempio di questo iato, di questa discrepanza tra una produzione dell'immagine e la sua leggibilità o la sua storicità la dà Benjamin stesso in una delle più famose tra le sue tesi di filosofia della storia. Il termine filosofia della storia oggi è abbastanza giustamente per certi versi e quindi con certe ragioni è generalmente maltrattato dagli studiosi anche post-marxisti. Il marxismo, come tutti sapete, ha avuto l'ambizione per un periodo di essere una filosofia della storia, o perlomeno che comunque è l'erede o comunque della più famosa filosofia della storia, che ci sia, è quella. La storia più importante, più forse non la prima, ma quella di Hegel, ovviamente, siccome Marx era un hegeliano di sinistra, in qualche maniera. Filosofia della storia significa, in questa accezione del termine, pensare che la storia una finalità e una riconoscibilità e sia l'espressione di un piano, se non intenzionale, quantomeno progettivo. Non ci vuole niente a capire che questa idea così terribilmente illuministica e laica, diciamo in realtà, proviene da un'idea religiosa, cioè è la prima filosofia della storia, non l'ha formulata Hegel in realtà, ma l'ha formulata una piccola e isolata tribù di popolazioni viventi nella attuale Palestina, che erano gli ebrei e che erano convinti che il tempo avesse una direzione lineare e che alla fine del tempo ci sarebbe stato il compimento di qualche cosa. Questo compimento era ovviamente la discesa sulla terra della Gerusalemme celeste, di cui loro modestamente e inadeguatamente cercavano di costruire l'immagine già economica sulla terra, e il loro Dio, il loro unico Dio innominabile, colui che è il Signore dei Signori, Yahweh, Jehovah o Adonai, avrebbe improvvisamente illuminato di senso la storia, che sino ad allora non era avuta, realtà nella Bibbia non c'è mai il termine storia nel senso in cui lo intendiamo noi, ma insomma. E comunque storia in quel senso lì era un modo diversissimo da quello in cui la intendevano gli storici antichi, per esempio Erodoto e Tucidide, da come l'avrebbero intesa. Però quello è l'inizio della, ovviamente poi ci vuole l'incontro con il pensiero neoplatonico degli ellenisti, e da questo incontro, come sapete, siamo noi, cioè lasciamo noi che siamo tutti o cristiani o post cristiani, anche se siamo altri, da lì veniamo, insomma, che dobbiamo farci. Quindi l'idea che ci sia questa. Allora, filosofia della storia, però insomma oggi è un termine che viene un pochino screditato. In realtà Benjamin Benjamin che era un ebreo e quindi è come dire, nutrito di pensiero ebraico, quindi in particolare di messianismo, però lui a suo modo tentò una operazione coraggiosissima che il suo amico Adorno non capì, perché tutto sommato Adorno era un accademico, tutto sommato sistemato, e Benjamin era un povero precario normale che faceva lavori editoriali, non aveva posti all'università, non aveva mai vinto nessun concorso, e c'era questa idea un po' strana che così. E invece Adorno, che era un signore elegante, figlio di mamma di origine italiana, padre di origine italiana, e così, che conosceva bene tutta la musica, coltissimo, eccetera, eccetera, quindi però un po' più ossificato di Benjamin, come si è capito dopo. Benjamin era un irregolare sia del pensiero che della vita, e lo dimostrò suicidandosi, neanche fatto vecchio, perché aveva neanche 50 anni. E va bene. Allora, in realtà Benjamin tenta di fare negli anni 20 e 30 del secolo scorso una arditissima operazione di sintesi, forse non è una sintesi, una giusta posizione tra marxismo e pensiero ebraico, tra, diciamo, materialismo storico e pensiero ebraico. Nonostante, come voi sapete da quello che vi ho letto, Benjamin usasse il termine dialettico in un senso un po' particolare, naturalmente era una persona intelligente, non un massalzone, quindi non ha mai usato il termine materialismo dialettico, che è una cretineria che si sono inventati alcuni marxisti di serie B, Marx ha solo sempre parlato di materialismo storico. Il materialismo dialettico è una specie di irrigidimento che poi i secoli leninisti e poi sovietici discepoli. Contraddittorio, cioè è un uso del termine, diciamo, dialettico terribilmente ossificato, cioè una sorta di hegelismo alla ennesima, diciamo, potenza. Il termine dialettico diceva, il mio materialismo si basa semplicemente sul fatto che quello che è importante è la concretezza dell'esperienza storica ed è nel muoversi delle forze contrapposte, quindi nella concreta dinamica storica. Il materialismo dialettico è un orrendo irrigidimento scolastico proprio di una intuizione, se vogliamo anche dire di una legge generale marxiana, che dice gli sviluppi storici hanno delle leggi ferree, che sono appunto dialettiche, ma dialettiche nel senso hegeliano, cioè con questa buffissima e caricaturale cosa per cui secondo Hegel la storia era un valzer. Aveva come movimento 1, 2, 3. 1 è la tesi, 2 è l'antitesi, 3 è la sintesi, senza questa roba, e quindi infatti disse cose difficili, quando Hegel stesso tenta poi, come era uno ancora più presuntuoso di questo musicista che è morto, da due Stoccausen. Era ancora più presuntuoso di Stoccausen, quindi pretendeva di applicare tutte le robe, poi scrive delle cose buffissime, quindi lui fa la geografia triadica, la roba triadica, cazzo, la roba. Asia, Europa, America. No, veramente ridicolo. Il materialismo dialettico è insomma simile. Allora, però questo è per segnalarvi che bene mi intende filosofia della storia in un modo diverso, cioè non intende che ci sono delle regole immutabili, precise e perfette, intende che nella storia sono in opera delle componenti e delle forze che hanno, diciamo, rilevanza generale, quindi che possono gettare luce, che sia la storia che la sua filosofia si gettano luce a questa vicenda. Questo è il modo in cui tende lui. Torniamo a noi. Queste tesi di filosofia della storia sono delle robe, delle tesi, quindi delle più o meno brevi asserzioni, statement, alcuni più lunghi, altri insomma altri più brevi. Una delle più lunghe, una delle più brevi, però è quella che è rimasta più famosa e che ha dato origine al titolo del primo libro di Benjamin mai comparso in italiano. Benjamin non ha mai scritto un libro chiamato Angelus Novus. È stato Renato Solmi che pubblicò questo libro per la prima volta negli anni 50, perché Benjamin non era molto noto in Italia, anche era quasi conosciuto prima che Renato Solmi ne parlasse. Il libro è uscito nel 62, però insomma negli anni 50 si iniziava. E questo frammento parla esattamente di questo quadro qua. Adesso vi leggo il frammento così capite che cosa ha preso, che cosa ha letto Benjamin in questo quadro, che cosa ci aggiunge poi, perché aggiungerà delle cose come sentirete leggendo. E quindi mi pare che questa che è la nona tesi, sono 11 le tesi di filosofia della storia, nella nona, quindi nella terz'ultima, si dice quello che vi dico adesso, quello che vi leggo adesso, ed è un esempio del fatto che ogni opera ha un tempo di produzione e un tempo di riconoscibilità, un tempo di lettura. In questo caso il tempo è stato relativamente breve, perché Klee ha dipinto questo quadro, non so l'anno preciso, ma pochi anni prima che Benjamin scrivesse queste cose, intorno al 1935. A questa tesi, che è la nona, c'è una piccola epigrafe, è in tedesco ed è, ovviamente in tedesco anche il testo originale, ma non l'hanno tradotta qua nella cosa, ed è di Gerhard Scholem, il quale era un amico di Benjamin, uno dei principali studiosi ebrei della Kabbalah. Chi vuole sapere qualcosa sulla Kabbalah può ancora oggi leggere Gerhard Scholem, o Scholem, non so come si chiama, che era uno studioso di mistica ebraica, amico di Benjamin. Dice, allora, l'epigrafe dice, per chi sa il tedesco, leggo anche in tedesco, detto, poi leggo la traduzione. Mein Flügel ist zum Schwang bereit. Ich kehre gerne zurück. Denn bleibe ich auch lebendige Zeit. Ich hätte wenig Glück. Ovviamente capisci che sarà la rima. Che in Italia si perde. La mia ala è pronta al volo. Ritorno volentieri indietro. Perché restassi pur tempo rituale, avrei poca fortuna. La mia ala è pronta al volo. Ritorno volentieri indietro. È difficile capire perché sono quattro versi tratti da qualche cosa, ma poi capirete dopo perché lui la mette. Dice Scholem, in questa che è una poesia chiaramente, che si chiama Saluto dell'angelo, saluto dall'angelo, Grus from Angelus, Angelus in latino però, come in latino è Angelus, no, tutti per parlare di te. La traduzione è: la mia ala è pronta al volo, ritorno volentieri indietro, perché restassi pur tempo vitale, forse restasse però, no, c'è un inizio, restassi, perché se anche io restassi tempo vitale, avrei poca fortuna, quindi dice torno indietro. La tesi di Benjamin dice così: c'è un quadro di Klee che si chiama Angelus Novus. Vi si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ok? Benjamin ci leggeva questo movimento in questo quadro. Sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo dell'angelo, voi vedete, va verso la destra del quadro. Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese. È vero. Adesso comincia il delirio di Benjamin. L'angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre l'infranto. Ma una tempesta spira dal paradiso, che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che egli non può più chiuderlo. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo il progresso è questa tempesta. In che anno lo spirito? 32. Abbastanza perfetto. Intanto il nazismo c'era già. Allora, non vi chiedo ovviamente di essere d'accordo con me, ma avete capito perché vi ho letto questa cosa in relazione? È un modo particolare che Benjamin ha di usare questo quadro. Nessuna persona che guardi questo quadro ci legge nulla di quello che dice Benjamin dopo, non ci sono le rovine, non c'è neanche il passato e il futuro. Forse non c'è neanche la tecnica di Klee, come tutti sapete, è il suo imperativo è l'appiattimento, non c'è nessuna tridimensionalità nei suoi quadri, sono tutti piatti, spiazzati, quindi anche qua non pare che ci sia. Dunque, io non ho mai visto questo quadro dal vero, quindi cercando su internet in effetti se ne trova alcuni con una dominante più o meno così, sapendo quanto è importante il colore per Klee, e altri invece hanno ad esempio una dominante azzurrina, non so come gli è uscita, ma sì, secondo me è identica, se riuscite a fare i cambi di colore. Ho scelto questo perché mi pareva uno dei più Cioè, perché si spiegherà la, come maggioranza aveva questo colore qua e quindi suppongo che avesse questo, questo, questa scala cromatica qua piuttosto che una sola azzurra. Quindi intanto lui già nella descrizione del quadro che sta nelle prime tre righe dice si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. È vero che l'angelo ha lo sguardo, i due occhi sono tutti e due verso destra, verso destra del quadro. In realtà, cioè, è difficile, cosa, dove sta questo movimento che vede Bellamy? Sta probabilmente nel, nel, nella disposizione delle ali. Sì, sembra che si muova perché gli è... sembra, e forse nel fatto che un piede sembra avanti, lievemente più avanti, lievemente più indietro. Ripeto, però è una cosa... Una volta Giacomo Verde fece un, faceva una performance con delle immagini astratte che creava con una semplicissima telecamera mandata in loop sul un monitor, poi trasmessa per il proiettore, e gli uscì a un certo punto una struttura AX che a me pareva esattamente questa della figura della Neusnov. E glielo dissi, ma lui non aveva ancora letto questa cosa di Clay. Questa cosa è bene, praticamente parlai da solo, però lui, siccome si fida sempre delle cose che gli dico io, lesse la cosa che mi dice che sono lui, non toccava niente, però questo per dire che le intenzioni degli artisti spesso poi erano nessuna intenzione sua. Dove sta la, come dire, il salto che gli fa fare, che fa fare Benjamin a questo quadro di Clay? Sta ovviamente già nella terza riga, nella quarta proposizione di questo frammento, in cui Benjamin dice l'angelo della storia deve avere questo aspetto. E con una sola frase ci dice, primo, che ha letto questo angelo di Clay come se dovesse parlare della storia, perché lo vede allontanarsi da qualcosa su cui volge lo sguardo, quindi ci vede dentro presente e futuro, quindi ci vede dentro una categoria temporale. Secondo, ci dice che la storia ha in qualche maniera un angelo, cioè che ha... Allora Benjamin era profitto di cultura ebraica, ma non era un religioso praticante, insomma era praticamente ateo, quindi se uso il termine angelo deve essere in qualche maniera una questione metaforica. Quindi c'è una, come dire, potenza o un qualcosa che media, perché l'angelo è un mediatore, è un tramite tra la dimensione divina e spirituale, quella mondana e materiale, e la storia quindi in qualche maniera è una mediazione. Ma poi ci dice una cosa ancora più, questo possiamo anche sorvolare su questo, anche se dice Benjamin che l'angelo della storia ha il viso rivolto al passato e però si muove verso il futuro, però ci sono dei falli. Sta andando in centro, ma sta venendo verso di noi. No. Si è girato. Ha girato la storia della Terra. No, si allontana secondo lui. Sì. Così legge Benjamin. Si allontana dal quadro. Sta andando dunque, per nella come dire, metafora di Benjamin, il passato siamo noi. L'avvenire sta, il futuro è al di là del quadro. Il suo indietro è il nostro avanti. Quindi l'angelo della storia è qualche cosa che va nella stessa direzione nostra, ma gli volta le spalle a quella, diciamo, direzione. E cos'è che lo spinge, secondo Benjamin? È una, e qui lui addirittura introduce il paradiso, e quindi introduce sempre il principio. Ha il viso rivolto al passato. Dove lo raggiunge? Lui dice, e poi la storia, l'angelo della storia, non la vede come noi. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe, una sola, dice. Quindi vuol dire che l'angelo della storia vede la storia in termini più unitari di quanto non la vediamo noi, che però è una catastrofe. perché accumula rovine senza tregua, che accumula senza tregua rovine su rovine, e dove le rovescia? Ai suoi piedi. Non, ovviamente non ci stanno a fare queste rovine, questa è la sua idea. Che cosa vorrebbe fare quest'angelo? Vorrebbe fare quello che fanno tutte le brave persone, tutti i buoni. Egli vorrebbe trattenersi, destare i morti e ricomporre l'infranto. Destare i morti e ricomporre l'infranto. Cioè, vorrebbe dare il meglio a questa enorme, immane e unitaria catastrofe che è la storia. Vorrebbe risarcire tutte le vittime della storia. Vorrebbe ridestare i morti e ricomporre l'infranto. Vorrebbe ridare unità a ciò che la storia ha frantumato. Ovviamente qua per storia non deve essere, dovete capire, però l'interesse della storia della verità, ma per forza anche tutta la storia. Perché non può farlo? Perché c'è questo movimento che lui ha verso il futuro, cioè verso le sue spalle, il nostro passato, deriva da questo. Ma una tempesta spira dal paradiso, una tempesta spira dal paradiso, che si è impigliata nelle sue ali. Ed è così forte che non può più, ecco perché non chiude le ali. Perché c'è un vento impetuoso, una tempesta che spira dal paradiso. Ovviamente bisogna essere ebrei per aver detto una cosa del genere, cioè bisogna essere veramente convinti che in qualche modo nella storia o nelle visioni dell'uomo sia all'opera un principio divino, di qualsiasi natura sia questo Dio, perché poi ovviamente abbiamo la chiusa che si spiega. Quindi lui non può chiudere le ali perché c'è una enorme tempesta che spira dal paradiso, gli impedisce di fermarsi a soccorrere le vittime della storia e a ricomporre ciò che la storia ha infranto, e quindi egli deve andare avanti per noi, indietro per lui. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ovviamente la chiusa è controintuitiva e ciò che noi chiamiamo il progresso è questa tempesta. In altri testi Benjamin scrive che la rivoluzione, a cui lui nei suoi tempi credeva fermamente, la rivoluzione del proletariato, anche se aveva forse già una visione meno angusta del proletariato di altri teorici più politici di lui, insomma, comunque, la rivoluzione, dice lui in un altro frammento, in altri testi, diciamo politici di quel testo del 27 che parla sulla tipica della violenza. La rivoluzione, dice lui, non si fa affatto pensando al futuro, non si fa con gli occhi rivolti verso il futuro, è una stupidaggine, dice, che ed è evidentemente una polemica contro tutto il marxismo dei suoi tempi, ma anche contro il pensiero liberalismo e, come dire, marxismo, e questo sono, diciamo, cugini simili, differente. Sono convinti che esista una logica progressiva nella storia, per cui a parte alcune situazioni congiunturali di più o meno, diciamo più o meno rilevanti, il movimento della storia sia un processo che va dal peggio al meglio. Questo vuol dire progresso. Credere che la storia abbia in sé stessa, per il solo fatto di essere storia, per il solo fatto di essere, diciamo, che il trascorrere del tempo abbia, per il solo fatto di essere il trascorrere del tempo, un valore, come dire, positivo, che sia un gradiente, che sia un differenziale che manda diciamo, avanti le cose, per cui il futuro sarà certamente migliore del presente, per non dire del passato. Bene, amici, dice che tutto questo non è un buon stato d'animo o una buona premessa per poter fare una rivoluzione, cioè per poter operare veramente un drastico cambiamento nello stato di cose presenti. Ammesso che ci interessi la rivoluzione, o vogliamo dire la rivoluzione, vita a non, lavorare a questo scopo, a non predisporre nulla in vista di una possibile rivoluzione, di un possibile cambiamento con lo sguardo rivolto al futuro. Lo sguardo dobbiamo averlo rivolto verso il passato, dice lui. Ma qual è il passato di cui ci racconta il frammento di Angelo? Il passato sono le rovine e i morti. Quindi una rivoluzione non si fa perché noi vogliamo stare meglio, ma si fa perché vogliamo in qualche maniera riparare ai danni che sono stati fatti prima. Ci sono delle vittime, ci sono uno o milioni di persone morte a causa del progresso, a causa della poco accorta credenza per cui ciò che viene dopo è meglio di ciò che viene prima, automaticamente. E sono queste le forze in nome delle quali si deve cambiare, se uno chiede di dover davvero, diciamo, cambiare. Allora, tutto questo Walter Benjamin lo ha visto, chissà se lo ha visto, lui ci dice che l'ha visto in questo quadro. Possiamo lasciarlo l'Angelus Novus così, ma per il momento abbandono, non ho fatto niente perché ho chiuso il computer. Allora, faccio sempre commenti al passo di Benjamin letto l'altra volta. Questo era il primo commento. Il secondo commento non sarà completissimo, ma insomma cerchiamo di... Allora, ciò che distingue le immagini dalle essenze della fenomenologia è il loro indice storico. Heidegger cerca invano di salvare la storia per la fenomenologia in modo astratto, attraverso la storicità. Ora, sulla storicità non dico niente, che è una cosa un po' troppo complicata, ma perché il problema dell'immagine è stato in certi momenti così rilevante per la filosofia? Perché il termine immagine è un termine ambiguo. Noi con immagine intendiamo tanto alcune produzioni materiali, cose che vediamo, materiali, messo che una proiezione di un proiettore sia un materiale, una parte della materia, gatti, luce, anche quando è stato materia, nel quadro di Cleno non c'è dubbio che fosse come dire materiale. Ma anche quella riproduzione del quadro di Blake che abbiamo visto proiettata su un muro è un effetto di materia, perché ci sono dei fotoni, ci sono delle particelle di silicio, che so, c'è una parete di cui c'è. Diciamo, ammesso se non proiettore su che cosa proietta, però ci possono essere anche essere proiettori olografici che proiettano nello spazio. Però anche lo spazio sulla Terra è uno spazio materiale, l'atmosfera è materia pure lei. Quindi noi abbiamo sempre questa concezione ingenua e un po' vecchiotta, voglio dire, pre-atomica, della materia con la materia con la cavatura compatta, eccetera. Invece la materia sono particelle che vibrano, se vado al livello nanometrico, sono particelle che vibrano, quindi tutta questa pretesa stabilità della, come dire, materia è un effetto di cose che sono onde, sono spinte, vibrano, sono cercate. Allora, comunque torniamo a noi. Allora, con termine immagine noi intendiamo tanto una immagine prodotta materialmente dall'uomo con qualche mezzo su qualche supporto materiale di vario tipo, ma intendiamo anche in qualche cosa che per il punto di vista filosofico è ancora più fondamentale. Da dove originano queste immagini? Che origine hanno? Da dove sono partite? Chi le ha prodotte manovrando e manipolando che cosa? Come si fanno? Da cosa partono i quadri, le fotografie e qualsiasi prodotto, i film, i videogiochi, lo schermo, la scrivania virtuale, tanto di Macintosh che di Windows sui nostri computer, da che cosa derivano? Allora, derivano in ultima istanza, supponiamo di essere degli ingenui materialisti e di credere di avere una concezione molto gnucca e molto arretrata dell'arte, per cui l'arte è l'imitazione della, diciamo, natura, supponiamo, dico, per comodità di esposizione, come si usa dire. Anche in questo caso, cioè anche se la produzione di immagini fosse tutta, e sappiamo già che non lo è, ma insomma, anche se fosse tutta la semplice, piatta, fedele, banale, fedelissima in scala 1:1 riproduzione di cose del mondo esterno, non ci potrebbe essere nessuna immagine su un supporto se non ci fossero delle immagini nella nostra testa. Le origini immediate delle immagini prodotte dall'uomo su qualunque supporto sono le sue immagini mentali. Ora, noi nominiamo questi due oggetti, cioè la produzione delle immagini, i prodotti, le immagini che noi produciamo, e se fossi uno junghiano o un essenzialista direi l'archetipo, ma non essendo non posso usare questo termine, diciamo la fonte, il luogo scatenante, il processo dal quale parte la produzione e senza le quali queste immagini non potrebbero essere prodotte, sono dei contenuti mentali, delle organizzazioni di dati, attenzione, non sono pure semplici sensazioni, ovviamente in questo momento ognuno di noi sta producendo nella sua mente delle immagini mentali. Ma non si possono chiamare idee? No, idea è un'altra cosa, perché l'idea, adesso io in questo momento non ho un'immagine mentale del CISE, di nessuna idea della volontà di tanto, non so nulla, tranne delle cose che non lavoro, ma adesso alla memoria ci arriviamo dopo. Ci sono dei contenuti mentali che sono contenuti mentali in presenza, sono sintagmatici, adesso io ho l'immagine mentale di tutte le vostre facce. Voi dite, ma tu vedi le vostre facce? No, io non sto vedendo le vostre facce non so cosa sono. Le vostre facce sono un noumeno, questo tavolo è un noumeno, è una cosa inconoscibile in quanto tale. Che cazzo ne so di questo tavolo? Nulla di voi, non so nulla della vostra esistenza concreta, non ho alcuna prova. Ho la prova solamente che in alcuni neuroni del mio cervello si formano delle immagini che io, fiduciosamente, sono convinto corrispondano a delle persone reali, ognuno dei quali ha la vostra faccia. Tra le cose di cui sono convinto di questo sta il fatto che ogni tanto ho scontrato, sfiorato qualcuno di voi, il fatto che vi ho visto interagire, vi vedo interagire costantemente con oggetti materiali e quindi è ovvio che ho delle... Però, diciamo, da un punto di vista generale, se io dovessi andare a scarnificare, togliere le sovrastrutture, le superfetazioni che le conoscenze e le ideologie ti hanno riempito, che cosa ho io, che cosa è che mi mette in rapporto con voi, che cosa vedo di voi? Vedo dei contenuti mentali, cioè l'impressione che alcuni oggetti, che alcune cose che stanno nel mondo esterno fanno sul mio. Quindi il cervello produce in continuazione immagini, cioè che con buona approssimazione, con una totale plausibilità si possono ritenere repliche o comunque causate in maniera diretta dal mondo materiale, il quale comprende anche i vostri corpi e le vostre facce per me, mentre io faccio parte del mondo materiale per ognuno di voi, come ovvio, siamo tutti esterni, quindi è testa con penetrazione. Volarti, se seguissimo gli insegnamenti del Dalai Lama, che la sia la saprei, dimmi. Quelle che Platone pensò scendessero noi dal mondo delle idee. Sì, Platone, il discorso di Platone è molto più complesso, insomma, perché poi noi diciamo idee, cioè in realtà. Allora, idea, il termine greco è ideia, non vuol dire idea, vuol dire immagine. L'eidos è evidentemente una immagine, eidos è la parola da cui deriva l'idea. Platone era convintissimo che tutte le cose del mondo, gli esseri umani e tutte le cose, compresi però i concetti astratti che l'uomo poi si forma, stessero in un altro mondo, chiamato iperuranio, e che questo mondo iperuranio, che conteneva le essenze immutabili di tutte le cose che noi vediamo nel mondo, per qualche misterioso processo facesse delle continue repliche, c'era una essenza uomo, una essenza cavallo, una essenza città, una essenza. E questa essenza, questa che lui chiamava idea, perché era lui la, come dire, vedeva proprio lui che era così critico di tutte quante le arti, che ce l'aveva con i poeti, con gli artisti, con gli scrittori, con tutti ce l'aveva, tutti quelli che facevano arte, perché imitavano qualche cosa che era già imitata dalla cosa. In realtà poi, quando ci deve dire, ci dice che sono degli eidos, quindi sono delle immagini, ma sono immagini che hanno questo curioso privilegio di essere sottratte al tempo, immutabili, eterne, stanno in un altro posto e noi, come nel celebre mito della caverna, non vediamo queste idee, vediamo le ombre di queste idee proiettate sul muro di questa caverna, e cioè la metafora di Platone, nel mondo materiale non ci sono altro che pallidi riflessi delle idee. Però in realtà noi col però parlare di idee nel senso di Platone è nell'italiano moderno, come in ogni lingua europea in questo momento, neolatina o no, è fonte di equivoco, perché noi col termine idea non intendiamo più un improbabile archetipo. Se fosse vissuto ai giorni d'oggi, Platone ci avrebbe detto che probabilmente c'era pure un archetipo del protegi computer, di cui quello di Eleonora, che è il tuo, e il mio, sono entrambe due infedeli repliche, sono anche un po' diverse tra loro, cioè, quindi, cioè, però c'è una, cioè, questa per lui sarebbe una idea, sì, per lui è un'idea perché è un eidos, perché in realtà noi col termine idee intendiamo qualcosa, cioè, sono stati 20 secoli, no, sì, 25 secoli di filosofia tra noi, però noi con idea intendiamo la produzione mentale di un concetto astratto, anzi molto astratto, cioè se non è tanto astratto la chiamiamo concetto. Tra concetto e idea? Appunto, insomma, diciamo, l'idea è ancora più astratta di un concetto. L'idea è la differenza tra concetto e idea? Secondo chi? Ognuno ha i suoi cazzi, quindi secondo Kant, ognuno ha i suoi modi terminologici. Allora, secondo la distinzione fra, diciamo, concetto e idea è definitivamente kantiano, definitivamente, insomma, è quello che l'ha introdotto, è stato Kant. I concetti sono degli strumenti dell'intelletto, le idee sono strumenti della ragione. Quindi i concetti sono solo i concetti che hanno valenza direttamente cognitiva, cioè sono categorie o anche semplici astrazioni di oggetti. Allora la differenza tra come dire, Platone e Kant come frase, non so come dire, come fra Platone e un induttivista è questa. Platone dice esiste un archetipo. Quelli che giocano con gli archetipi oggi lo sappiano o no, sono platonici. No, io non dico niente, sono un termine che gira in questa accademia con grande disinvoltura, dicendo che poi non si professa platonici, se si professasse platonici, io dico bravo, sei platonico. Va bene. Allora, nella cosa platonica, allora ci sarebbe un archetipo, una specie di immagine, di eidos, originario di tutti i portacomputer possibili e immaginabili, dai quali il portacomputer di Eleonora e il mio discendono come concretizzazioni, materializzazioni, casi particolari, ovviamente terribilmente infimi, sia quello di Eleonora, che è un po' meglio del mio, sia il mio, sono delle terribilmente semplificate e degradate produzioni materiali, quel bellissimo e perfetto oggetto immateriale, di questo Eidos che è il copricomputer astratto e ideale. Ma con la fase del demiurgo cosa cambia? Sì, il demiurgo per Platone è semplicemente uno che ha fatto il mondo, poi il demiurgo è stato sdoganato da lì. Non mi fa parlare di gnosticismo, no, perché mi hanno già accusato di essere uno gnostico anch'io, questo tutti sono gnostico, ma siccome ho degli amici gnostici mi hanno detto cosa? Non è che mi offende, ma sicuramente sarebbe peggio che come mi dicessero che sono devoto di Padre Pio, quello è molto più, sarebbe molto più offensivo. Però non è tanto tanto diverso l'essere devoto di Padre Pio e sono gnostico. Ma certo. Allora, l'induttivista invece cosa fa? L'induttivista non c'ha questo slancio che c'ha Platonico, il quale è convinto della esistenza di Eidos o di archetipi o di idee generali. L'induttivista è uno che cammina per il mondo e camminando per il mondo incontra prima il copricomputer di Eleonora e poi il mio e dice ma guarda un po', esistono due oggetti sicuramente diversi tra loro, i quali però hanno alcune caratteristiche comuni. Primo, sono un po' morbidini e non troppo rigidi. Secondo, hanno una cerniera che li consente. Terzo, c'è scritto qualcosa sopra da cui si capisce, o se no ci arrivo anche se non è che si mette dentro questa cosa, queste cose sono destinate a contenere degli altri oggetti chiamati computer. Allora dice questa, ce n'è uno, ce n'è due, ne vedo due, ne vedo tre, ne vedo quattro, ne vedo cinque, e mi faccio una teoria che fanno gli oggetti materiali, ce n'è uno chiamato copri computer, il quale, questo è il marziano induttivista, uno che arriva da fuori, non sa un cazzo, quindi non sa nulla sui dettagli, diciamo, l'alieno platonico arriva e dice ah questo sicuramente esiste, io magari non lo sapevo perché nel suo mondo non c'è il proprio computer, perché non c'è il computer, però diciamo l'alieno platonico è capacissimo, ha la ampiezza e la agilità mentale di dire ah c'è un'altra idea, c'è un altro eidos, c'è un'altra cosa generale che io non conoscevo benissimo, perché gli esseri viventi sono come dire fallibili nella loro conoscenza, questo anche il platonico, anche se sono testi molto dure, ma arriverebbe a concepirlo, e quindi dice ah c'è un'altra idea, aggiungo il copri computer al mio catalogo delle generali. L'induttivista che non può fregare di meno delle idee generali, che sa che le idee generali sono costruzione umana e quindi storicamente diciamo mutevoli, intanto non si stupirà di se fosse vediamo un alieno induttivista che fa i viaggi nel tempo, diciamo, che ha anche una macchina del tempo, lui è stato nella Roma antica o nel futuro tra 30.000 anni e lì non ha trovato i copri computer. Arriva nei paesi sviluppati, in Africa forse qualcuno ce n'è, ma meno che in Europa, negli Stati Uniti e in Giappone, no? Arriva in questi paesi qua e dice ah c'è uno chiamato copri computer, dice beh perché c'è il computer, perché storicamente l'induttivista non si stupisce perché sa che le epoche cambiano, eccetera eccetera. Bene, l'induttivista allora dall'esame di alcuni casi particolari induce, esattamente, che vuol dire indurre, che vuol dire induzione. Portare dentro. Tirare fuori. Indurre, no, l'applicazione sarebbe deduzione. L'induzione è un movimento conoscitivo che va dai casi particolari a delle robe più generali, è un normale movimento di astrazione. Dal particolare, io vedo tanti casi particolari, vedo tanti copri computer, che sono tutti diversi uno dall'altro, uno di uno è di Eleonora, l'altro di Carolina, eccetera, o di altri che sono, e allora induco, cioè traggo, è un modo logico, è una inferenza, insomma, è un modo di trarre... Come dedurre. No, è l'opposto di dedurre. Allora, dedurre, la deduzione è esattamente il movimento opposto, che dall'universale deduce casi particolari. Dall'universale al particolare è, scusate, la deduzione. Dal particolare all'universale è la induzione. Ovviamente non ci voleva la testa dei semiologi per capire che queste due robe, ci manca la terza roba fondamentale, che è quella che noi facciamo più spesso. Noi quasi mai deduciamo e molto poco induciamo. Noi deduciamo poco, anche se qualcosa deduciamo, che non è troppo. In realtà la gran parte della nostra conoscenza consiste nel concludere, nel diciamo tirare fuori conclusioni particolari da altre cose particolari. Quindi la gran parte della nostra mentalità va dal particolare al particolare. No? in specialmente per esempio il lavoro, certo, il lavoro dei poliziotti per esempio non è né induttivo né diciamo deduttivo, eh? Il poliziotto arriva lì e dice: una certa signorina inglese che faceva l'Erasmus a Perugia è stata sgocciata a casa sua, andiamo a vedere cosa sono le cose. Questo è un caso particolare, non è una roba generale, no? È un evento, sono dei dati. La signorina inglese che sono sgocciata. Esatto, non potete vedere, qui non c'è nessuna legge, giustamente. E poi il poliziotto del Perugia che dice: allora c'è una legge, la signorina inglese? No, no, questa signorina inglese in particolare, chi l'ha ammazzata questa signorina? Non certo un'idea, non certo, quindi devo trovare qualche altra persona particolarissima che in condizioni particolarissime abbia preso questa qui e l'abbia spostata. Ma non deduce una sega, cosa deduce questo? Deduce chi fa della matematica e dice: siccome questo, ho questi assiomi, deduco queste, cioè questa è la deduzione. Noi chiamiamo deduzione, lo so che qui con i giornali si chiama così, ma se vogliamo costruire una terminologia filosofica, quella non è deduzione. Allora, i semiologi hanno deciso con un termine, devo dire, un po', obiettivamente un po', specialmente per un inglese, frightening, come si può dire in italiano, raccapricciante, con una cosa un po' inquietante, hanno deciso di chiamarla abduzione. Quindi deduzione, induzione, abduzione. In realtà tu abducti in inglese vuol dire rapire una persona a scopo o sessuale o di altra cosa, quindi l'abduzione in realtà sarebbe una sorta di sequestro, però come l'ha inventato? L'ha inventato Umberto E, no, neanche Eco, l'ha inventato Siebeck insieme con Eco, quindi un semiologo americano, un semiologo italiano che conosce assai bene l'inglese. Però insomma, a me quando vent'anni fa venne proposto questo termine, dissi, e all'epoca conoscevo l'inglese molto peggio di ora, però non so perché già insomma, le cose più approcci di una lingua sono quelle che imparo per prima, sono parolacce, termini tipo no, abducto, sapevo che tu abducto vuol dire quella roba di dire, no, abduzione, c'è un po', però poi loro la chiamano così, va bene. Concetto idea. Tutte queste lunghe cose, da dove sono partite? Da concetto idea. Ma in realtà dalla questione delle mani. Ah, sì, perché sono delle mani, allora, certo. Allora, dicevo, il ritorno a bomba in questo caso, fatto salva ogni analogia con il terrorismo, ci porta a questo punto. Stavo dicendo quindi che c'è una costruzione di immagini mentali, cioè di costruzioni mentali che noi chiamiamo che sono immagini mentali in presenza della fonte che le scatena. Esempio, l'immagine mentale che io ho dei vostri volti e di tutta questa camera in questo momento. È un'immagine mentale, io posso muovermi non perché c'è la camera, perché se ci fosse la camera e io non avessi le capacità cerebrali di fare un passo dietro l'altro, di sapere dove uno, di conoscere un viso, alcuni visi li conosco più diciamo di altri, di rivolgere domande, di sapere di non inciampare nei cavi, abilità che a me manca un po' perché ci inciampo sempre, ma insomma diciamo se fossi un essere umano perfetto non inciamperei neanche nei cavi, tutte queste cose qua non derivano dalla semplice presenza materiale di tutte queste cose, pareti, tavoli, persone, cavi, computer e copy computer. Deriva dall'immagine che io ho di questi, deriva dal fatto che io so come trattare e come parlare di un copy computer che oggi fa il centro di questa lezione, il copy computer di Eleonora, è subordinatamente il mio, perché ho una produzione mentale relativa a queste cose e questa produzione mentale in primo luogo produce dentro di me degli effetti che io chiamo immagini mentali. L'effetto di realtà prodotto da questo computer o dal viso di Loretta o dal viso di Eleonora nella mia testa sono immagini mentali. Ma se fosse così semplice, queste sono immagini mentali in presenza. Dopodiché io quando torno a casa mi ricordo dell'immagine buffa e di alcuni di voi che sorridevano, eccetera, perché io facevo degli esempi su un copy computer. E quindi a casa mia, in un'altra stanza, in un altro ambiente, in un altro tempo, in condizioni materiali totalmente diverse da queste, quindi non più in presenza ma in assenza, io posso evocare più o meno con più o meno fedeltà, con più o meno correttezza, questa scena che ho vissuto oggi e rivederla, posso rivedere nella mia mente e posso combinare tra loro, posso immaginare ecco dove il realismo ingenuo casca, perché non è che io sono non è che questa mia produzione di immagini mentali sia legata solamente alle cose che ho visto, ma è intanto io posso combinarle in maniera inedita tra loro queste cose, posso immaginare che in questa stanza, come nel film di Woody Allen, evocato da Woody Allen, si materializza McLuhan nella fila degli operatori del cinema e parla con Woody Allen, così io posso immaginare nella mia testa, conoscendo bene la faccia e la persona di Umberto Eco, che evocato Umberto Eco da me si sia materializzato nell'angolo e abbia detto ma quello che dice Caronia non è poi tanto vero, perché eccetera eccetera. Posso immaginare qualcosa che non è mai successo, posso immaginare qualcosa di totalmente fantasioso, legato a un avvenimento reale e materiale, posso farlo quando torno a casa dopo, o posso farlo anche nell'istante. Non l'ho fatto prima perché non ci ho pensato, adesso ci ho pensato e sto concretamente evocando nella mia mente l'immagine di quest'aula con Umberto Eco che sta esattamente qua, lo vedo qua, Umberto Eco in questo momento sta qua al posto che occupo io adesso, qua c'è Umberto Eco che con una voce un po' diversa dalla mia ma altrettanto profonda e sicuramente molto più affascinante e autorevole poi perché la diciamo dottrina e i quattrini di Eco non si discutono, Umberto che dice delle cose e dice ecco qua, io mi sono immaginato inventando una cosa, questa è, io quindi ho un'immagine mentale. Più o meno ognuno poi ha i suoi modi, sarebbe difficile, adesso che io l'ho detto con le parole, ho evocato la stessa immagine in voi, quindi in ognuna delle vostre teste, mo, che lo vogliate o no, sto rompicazzo di Caronia vi ha fatto nascere un'immagine mentale di questa stanza con Umberto Eco, no? E ognuno di voi se lo immagina. E sicuramente ognuno di voi se lo immagina in maniera diversa, come l'ho immaginata io, e con delle colorazioni, con delle particolarità, con delle proprietà che sono diverse dall'uno all'altro. Se uno non sa che faccio tra Umberto Eco, come fai? Oh, brava, se uno non sa che faccio Umberto Eco, succede esattamente come quando ti telefona una persona sconosciuta. La tua testa, come la mia, quella di tutti, se la immagina, si costruisce una sorta di immagine abbastanza vaga, quindi un po' blurred, un po'. Oh, non, grazie, non quanto ha fatto, mi vengono prima i termini inglesi che quelli. Di quegli italiani oggi. Per qual è la vera ragione? È che ho dato 10 giorni a parlare in inglese ininterrottamente, non ne posso più parlare in italiano, no? mi si libera il cuore perché in inglese non lo so e mi tocca parlarlo. E va bene. Indistinta, confusa, ma adesso Eco ovviamente tutti voi avete visto grosso modo una foto di Eco, quindi la mia conoscenza di Eco è credo sia più precisa di quella di ognuno di voi perché io l'ho visto varie volte dal vivo, ci ho parlato, eccetera. Tu anche perché sei tavolone, allora comunque insomma chi l'ha incontrato bene, chi lo ha visto solo su una foto di giornale sa, certo ci può essere fra di voi una anacoreta stilita, vissuto nel deserto per 25 anni che non abbia mai visto, non sa neanche che faccia c'ha Umberto Eco, può essere colui che si trovasse in questo ipotetico caso di deprivazione cognitiva che non ha mai visto la faccia di Eco, si immagina lo stesso qualcuno da un approccio che ho fatto io, non so, ho fatto un approccio alla confrontura di Eco, quindi se lo immaginerà un po' più prudente di me, che ci vuole pochissimo a immaginare uno più prudente di me, ma insomma, diciamo, se uno per esempio sa non ha mezzo, ma sa che c'ha la barba, perché con lui ha detto, Umberto Eco c'ha la barba, non ho visto mai una foto, allora sa che Umberto Eco, quindi si immagina uno con la barba, insomma, ognuno di voi fa appello alle risorse di creatività che la vostra mente ha naturalmente e si immagina uno che non ha mai visto, no? Mai lo capisco, quindi allora uno può produrre contenuti mentali dette immagini delle cose in presenza, 2 rievocare più o meno a piacere, a volte non tanto a piacere perché a volte i ricordi saltano in noi a prescindere da ogni volizione, da ogni gesto di volontà, secondo può evocare con la memoria, quindi vedete che la memoria qualcuno di voi l'ha tirato fuori prima è pertinente, 3 può inventare anche delle immagini di cose completamente inesistenti, oggetti, persone, cose, eccetera, unico, limita la propria capacità combinatoria, la propria capacità di immaginare forme mai viste o cose o previste. Ora, tutte e tre queste cose, tutte e tre queste categorie di cose possiamo riassumerle sotto la voce immagini mentali, ok? Ok. Tutte queste sono la sorgente dell'arte. Beh sì, non so, ma ricordo sì. Dell'arte di ogni tipo, ivi compresa la poesia e la narrativa, per l'arte scritta, o l'arte orale, ivi compresa la parola. Anche la parola viene da lì, perché anche la parola, certo, esattamente, allora, quando voi leggete un libro, quando voi leggete un libro, capite anche forse perché ai bambini nella civiltà occidentale si danno da, diciamo, da leggere, per esempio, dei libri illustrati, cioè con delle illustrazioni. Perché si ritiene che il bambino sia un deficiente e che quindi non abbia la capacità da solo di creare immagini mentali. In realtà il bambino ce l'ha comunque. È vero però che quelle immagini mentali, io parlo per me, poi non lo so, ma penso sia una cosa generalizzabile, le illustrazioni dei libri che uno ha visto da bambino, poi in qualche maniera entrano nella composizione del suo immaginario in maniera preponderante rispetto ad altre cose che o si è immaginato lui o cose che la... Sì, perché ci sono più neuroni, ci sono meno sinapsi, e anche perché si ha più voglia di imparare, anche se uno non lo sa quando si è piccolo che quando si è grande. Insomma. Io non ho alcun dubbio che la mia paradossale e ostinata volontà di imparare delle cose alla mia età sia un tratto infantile, un tratto che io ho conservato dall'infanzia, diciamo dall'adolescenza. Tanto però cioè, è vero, è un po' di solo uno quando è quasi lui, ma che cazzo ne frega più, cioè so già tutto quello che mi serve, che mi frega più. Invece i bambini non sanno niente di quello che gli serve, quindi vogliono per tutto. Quindi. Allora, ci sono dei pro e dei contro dell'uso di libri illustrati, ma comunque sia, se anche uno fosse nella ipotetica, se uno fosse un islamico, metti, che non ha mai visto immagini di cose, come dire, nella sua vita, perlomeno non ha visto mai immagini, non dovrebbe avere mai visto oggi nel mondo globale, quindi, ma insomma, voi sapete che la religione islamica vieta rigorosamente, vieta assolutamente, proprio in maniera terribile, la rappresentazione di antropomorfizzate di esseri, diciamo, divini, ma vieta anche la riproduzione di fattezze umane o anche animali, quindi morale, insomma, l'arte dei paesi islamici è totalmente astratta, tranne i persiani, che ovviamente non erano islamici, era una storia culturale un po' più antica dell'isola, anche gli arabi evidentemente, ma insomma, i persiani di più, per cui i persiani sono fottuti e hanno continuato a mantenere le loro miniaturine, fare le cose che hanno preparato il fabbrismo, oppure i turchi, che non sono arabi, sono islamici senza essere arabi, pure loro. Anche quando io leggo un testo, quindi leggo delle parole o ascolto delle parole, tra l'altro ascolto da voi mi raccontate di un viaggio che avete fatto a New York. Io non sono mai stato a New York, ho visto delle cose, ma non sono mai stato a New York, e allora mi immagino sulla base delle foto che ho visto, ma voi mi raccontate un incontro che avete fatto nella 32esima strada. E io che non so dove è nella strada, mi immagino una 32esima, so come è fatta a New York, gli angoli, eccetera. Cioè mi immagino delle cose, cioè la, come dire, parola è evocatrice, parola parlata o scritta è evocatrice di immagini mentali in chi la legge o in chi la ascolta, se no la nostra mente funziona così. Allora, ecco perché, cioè, una delle fonti per le quali, una delle ragioni per le quali il problema dell'immagine è stato così rilevante in filosofia è dato più che altro da questa duplicità del termine, cioè dal fatto che col termine immagine noi intendiamo sia le immagini prodotte sia le immagini mentali. E quindi la relazione tra queste due immagini e la loro relazione con quella che si chiama realtà, con questa cosa misteriosa che si chiama realtà e che io suppongo, che noi supponiamo tutti abbia, come dire, avere una esistenza, ma il cui rapporto con la nostra percezione, con le nostre attività mentali è comunque problematico, da sempre, comunque sia, allora tutto questo configura una rilevanza del problema dell'immagine, alla quale arriviamo al testo di bene, poi c'è una pausa perché sono veramente stanco e voi suppongo anche, che Benjamin focalizza all'inizio del suo frammento sulle immagini, diciamo, dialettiche con il nome di Husserl e della fenomenologia. Allora, quindi dirò due robe, ma proprio due, sulla visione delle immagini di Husserl e della fenomenologia, e poi parleremo delle linfe. Pausa. Per vedere la devo comprare anch'io, perché sarebbe troppo comodo. Ragazzi, fatemelo spegnere. Angela, come si spegne? Questo. Questo lo stop. Ho visto che se tu hai un braccio c'è questo mostra un modo.